Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Alle radici della crisi, questo è il libro curato da Giulio Sapelli e Giorgio Vitadini, che parla delle ragioni politiche, economiche e culturali di un processo ancora reversibile. Ne parliamo con Giorgio Vitadini. Buonasera Vitadini. Buonasera. Giorgio Vitadini è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, che ha organizzato nei mesi scorsi un convegno, un incontro dedicato appunto al tema della crisi. Conversazioni a Milano, oltre lo statalismo, oltre la finanziarizzazione, un convegno, anzi una settimana residenziale promossa dalla Fondazione CEU e dalla Fondazione per la Sussidiarietà, a cui hanno partecipato Giulio Sapelli, Andrea Simoncini, Mauro Magatti, Massimo Borghesi, che hanno raccolto poi in questo libro le loro riflessioni. Ecco, qual è la logica di questo incontro e soprattutto di questo libro, Giorgio Vitadini? Ma quattro grandi studiosi hanno cercato di dare un quadro di insieme di quei processi che possiamo dire del lunghissimo periodo, che vanno sostanzialmente dalla Seconda Guerra Mondiale fino alla crisi finanziaria, secondo approcci che di solito vanno paralleli e non si incontrano mai, dando quindi un quadro parziale delle cose, in questo caso un approccio di tipo economico, Sapelli, sociologico, Magatti, politologico, Borghesi e giuridico, Simoncini. E cosa viene fuori? Che siamo alla fine di una lunghissima epoca, possiamo dire dell'epoca contemporanea, l'epoca delle ideologie, l'epoca in cui delle ideologie dominanti, con una certa visione antropologica diciamo negativa, hanno pensato di poter mettere a posto il mondo dopo la crisi moderna, la crisi delle religioni, l'idea di uno Stato che è capace di governare l'egoismo dei cittadini, l'idea di un mercato che con lo stesso egoismo riesce a costruire un sistema perfetto che permette il progresso. Ora tutto è esploso, è esplosa l'economia perché la globalizzazione, prima con la crisi, con il nuovo riassetto dopo il 45 del dollaro e poi la crisi del petrolifera con l'euro, con i petrodollari e infine la crisi finanziaria successiva alla globalizzazione, ha mostrato che il sistema è impazzito, non sta in piedi l'ottimo neoclassico, l'abbiamo visto. Questo corrisponde sul piano giuridico alla esplosione dell'idea che ci sia una legge che può mettere a posto tutti secondo dei diritti che non sono basati su presupposti religiosi. Vediamo via via la fine dell'idea di questo aspetto giuridico, quando questo aspetto giuridico prima nel primo dopoguerra diventa anche l'assetto formale di dittature senza una corrispondenza oggettiva, l'incapacità delle costituzioni di descrivere questa oggettività e l'esplosione delle stesse con il mondo dei giudici che si sostrae a legiferare e l'incapacità di costruire un diritto internazionale. Sul piano sociologico è l'uomo che dovrebbe avere, l'uomo razionale economico, il suo ottimo, e invece diventa un uomo che diventa insaziabile nella dicotomia che descrive Magatti tra persone che hanno sempre di più e sono sempre più insaziabili di bene e persone che hanno sempre di meno. È vero che la globalizzazione sembra equalizzare i paesi, ma crea anche divisioni che sono sempre più verticali, sempre più profonde, che ci richiamano quasi alle divisioni dell'ancien regime. E da questo punto di vista va in crisi lo Stato, perché lo Stato borghese, lo Stato che rifiuta di nascere dall'alto del diritto assoluto, è uno Stato che si sgretola al suo interno, perché vediamo questi processi regionalistici che mettono in discussione, pensiamo in Europa, un sacco di stati, la legittimazione degli stati, tutto il problema delle ingerenze democratiche e così via, e la domanda cosa sia lo Stato, su cosa si basi, qual è il nuovo contratto sociale. Ecco, quindi di fondo una dimensione della crisi che non è solo congiunturale, che non può essere risolta con le ricette appunto economicistiche, le ricette di monetarie, le ricette di piccole riforme, ma che è una crisi strutturale che mette in gioco la stessa posizione delle persone, gli stessi ideali, la stessa capacità appunto di fondare una società diversa, una società non utopistica ma fondata fondata concretamente sui valori delle persone. Sì, sì, il libro dà proprio questa ipotesi. Tutti e quattro, indipendentemente, dicono: se non si riparte da una nuova antropologia, da una visione positiva dell'uomo, un uomo positivo, pieno di desiderio, per parlare in termini di enciclica, l'uomo relazionale, l'uomo del senso religioso di Don Giussani, l'uomo dei desideri socializzanti di Arro, se non partiamo da questo uomo è impossibile ricostruire tra ideologie, etnie, religioni diverse un contratto sociale, una vita economica che sia per il bene. E quindi quello che butta lì è che siamo all'inizio di una nuova epoca, e quindi questa è una crisi strutturale non solo di questo anni, ma della fine di un'epoca, dell'età contemporanea, se diciamo che l'età moderna comincia con la Rivoluzione Francese. Ecco, forse in maniera un po' provocatoria questo libro si conclude con una lettura di Davide Rondoni, che non è né un sociologo, né un politico, né un economista, ma è un poeta, è qualcuno che guarda la realtà con gli occhi diversi da come li, forse siamo troppo abituati a guardarli attraverso le pagine dei giornali, dei libri o i commenti della televisione. Guardare la realtà con l'occhio di un poeta può essere non tanto una soluzione, ma una strada per arrivare poi a una soluzione. Ma già solo che ci sia un poeta che scrive di queste cose ci rifà a un ordine in cui magari i poeti, pensiamo Petrarca o Dante, avevano una vis politica, non erano quelli che parlavano di evasione dalla realtà, o Leopardi stesso. E quindi sono molto d'accordo, perché un complesso sociale, il contratto sociale, la vita economica non può essere vista secondo la specializzazione dell'età moderna, perché questa genera mostri. Il poeta deve poter guardare, secondo l'ottica di un uomo che vive, tutto quello che vive, e senza sentire poeti, cantanti, musicisti e quant'altro, scrittori, noi non abbiamo una visione di quello che capita, perché ci stacchiamo dalla realtà. Quella battuta di Iannacci sull'uomo del portale Scarnetello non sembra nessuno. Le scienze analitiche che perdono questi aspetti non parlano di nessuno. Ecco, in questa prospettiva il libro, appunto, fin dall'introduzione guarda alla realtà come qualcosa da cui si può ripartire, ricostruire la crisi come un momento certamente difficile, certamente complesso, che mette alla prova anche la società nella sua interessenza più profonda, ma comunque anche un'opportunità da superare se si riscoprono questi valori di fondo. Allora, concludendo, questo libro può essere, non dico una ricetta, ma un modo di guardare alla realtà cercando di tener conto di tutte le difficoltà che ci sono, ma con l'occhio a una persona che è capace soprattutto di costruire. La crisi in senso greco è un momento di critica, di ripartenza. Come diceva Roosevelt sul New Deal, l'unica cosa di cui aver paura è di aver paura. L'unica cosa di cui siamo di essere veramente in crisi è di essere in crisi sulla possibilità che l'uomo ha le sue capacità per superare anche queste difficoltà. Ecco, in questa prospettiva, Lo spirito dell'economia, il titolo del contributo di Mauro Magatti. L'economia è qualcosa che deve essere considerato uno strumento, non qualcosa a cui sacrificare appunto la dimensione umana. E da questo punto di vista, secondo tutte le visioni umanistiche, questo libro rimette in tema il soggetto, cioè il soggetto dell'economia, della politica, del diritto, degli stati. Senza il soggetto, come dice Havel nel suo ripubblicato Il potere senza poteri, è la vita nella verità della persona che ricostruisce i sistemi. Loro hanno buttato giù il muro senza violenza, quindi ci possono essere di insegnamento anche su questo. Grazie a Giorgio Vitadini di averci spiegato, di averci parlato di questo libro, Alle radici della crisi, le ragioni politiche, economiche e culturali di un processo ancora reversibile, un libro che raccoglie i contributi, oltre che di lo stesso Giorgio Vitadini e di Giulio Sappelli, anche di Maurizio Carvelli, di Andrea Simoncini, di Mauro Magatti, di Massimo Borghesi e di Davide Rondoni. Un libro che guarda appunto a una lettura diversa dalla non tradizionale, ma anche in prospettiva molto costruttiva positiva, per non dire ottimistica, di una realtà da cui si può prendere spunto per ripartire. L'immagine di copertina è un bucaneve che nasce appunto all'interno di una situazione difficile come quella di una neve che sembra ricoprire tutto, ma questo fiore trova la forza di nascere anche all'interno di un nevaio. Edito da Burr Rizzoli nella collana Saggi a 164 pagine per 10 euro. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma con tutte le sue puntate può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.